Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Si dice che il tempo è matto perché ancora non si è sistemata questa estate, ma di matto e di pazzo ci sono altre cose nel gergo comune. Un tema che ritorna insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, quello delle bollette pazze. Ben trovato il presidente Carlo Garofolini, ciao Carlo. Ciao amico, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, i numeri sono ancora una volta significativi. Voi avete registrato più di 500 casi dall'inizio dell'anno, quindi la proiezione è sopra i 1000 per tutto il 2014. Ah, senz'altro, visto il fenomeno, quest'anno abbiamo proprio voluto dedicarci a fare un censimento per capire quante problematiche, tematiche di bollette abbiamo rispetto a quello che sono un po' delle attività in generale che facciamo. Purtroppo è emerso che dall'inizio dell'anno ad oggi sono 539 i casi in cui i nostri uffici legali si sono dedicati a questo tipo di problematiche, ed è un fenomeno che rispetto all'anno precedente è aumentato dell'8%. Per bollette pazze intendiamo bollette con un quantitativo di denaro che viene chiesto esorbitante rispetto al normale, giusto? Sì, allora noi in questo censimento abbiamo voluto mettere un po' quelle che sono tutte le problematiche, e abbiamo notato come le più significative riguardano, per quanto riguarda l'energia elettrica e il gas, sicuramente si parla di problemi di conguaglio, di problemi di morosità che per la maggior parte delle volte non è neanche determinata per colpa del cliente, ma per colpa magari proprio di un'errata anche domiciliazione in cui queste bollette magari vengono recapitate. E poi abbiamo anche tutta una serie di problemi legati a calcoli inesatti o addirittura fatturazioni che, oltre a non arrivare, magari arrivano oltre la data di scadenza e causano non pochi problemi all'utente, che magari si trovano dei debiti in conto non pensati e talvolta hanno anche sconfinato per questa problematica qui. Mentre sull'ammontare di queste problematiche abbiamo notato come, riferiti ai gestori telefonici, oltre 160 diffide sono state mandate, inoltrate a questi enti rispetto a quelli di elettrica e gas, quindi siamo circa un 30%. E quindi non c'è differenza, sono equamente distribuite tra gas, energia elettrica e telefonia, giusto? Sì, perché per quanto riguarda la telefonia invece i problemi più comuni sono normalmente a debiti non giustificati, né documentati, difficoltà a cedere dai contratti a cambiare gestore, attivazione di servizi o abbonamenti per lo più che non sono mai stati richiesti. Poi abbiamo anche dei casi incredibili su questa vicenda che abbiamo trattato poco tempo fa anche assieme, di cui per esempio era capitata una signora che nostra Rosana Busetto, una signora di 72 anni che ha passato addirittura una notte all'Adico perché si è trovata improvvisamente senza gas per colpa di un errore il gestore che continuava a chiedergli importi e bollette da pagare con il numero di un contatore che per esempio non era dell'utente interessato, per cui questa diceva: come devo pagare consumi di gas che non sono miei? E qua siamo arrivati proprio a trovarsi al freddo in pieno inverno. Come abbiamo avuto anche il caso di Franco Dal Corso, sempre un signore che si è trovato improvvisamente una bolletta al gas da oltre 20.000 euro e questo per in 20-25 giorni vivendo un appartamento chiaramente non era possibile aver consumato un quantitativo simile di gas. E i problemi poi ancora più incredibili, che però magari non incredibili così, ma sempre molto interessanti, e comunque hanno dato un grande affare ai nostri uffici e che appunto ci hanno indotto a essere qui a fare un pochino questo ragionamento. Ecco, credo che gli interlocutori poi siano l'altro problema, perché non è che c'è un gestore unico per il gas, uno unico per l'energia o uno unico per la telefonia. In ciascuno di questi settori c'è ovviamente la presunta almeno liberalizzazione del mercato, ma credo che questi di servizi siano tutti uguali, non ci sia differenza tra azienda e azienda, credo possiate confermarlo. Guarda, innanzitutto, prima di arrivare a dirti quello che penso al riguardo, voglio darti qualche altro dato. Per esempio, le compagnie, per quanto riguarda più interessate per controversie di gas e Enel, abbiamo l'ENI e l'ENEL, mentre per quanto riguarda le problematiche di telefonia abbiamo Vodafone e Telecom, quindi anche qui sono chiaramente dati più importanti, ma sono anche quelli che hanno il maggior bacino di utenza. Per quanto riguarda il problema, come hai detto tu, il call center purtroppo sono i grossi problemi, perché sostanzialmente oggi mancano gli interlocutori. Abbiamo delle tempistiche di risoluzione che sostanzialmente non sono del tutto incerte, e le difficoltà che i cittadini devono affrontare sono infinite, però più aggravate anche da sistemi tecnologici che invece di semplificare la problematica fanno aumentare i disservizi e i malumori. Quindi anche questi numeri di telefono che poi sono a pagamento che devi contattare, poi scopriamo che rispondono persone che si trovano dall'altra parte del pianeta. Quindi situazioni che certamente dovrebbero essere un po' valutate anche in un'ottica di passare da un gestore all'altro quando appunto si decide questa operazione. Il caso pratico però, chi si vede arrivare queste bollette esagerate, abbiamo parlato di oltre 500 casi, cosa deve fare? Chiaro che ogni storia è diversa dall'altra, però c'è un consiglio comune che si può dare, cioè pagare o non pagare? Beh, il consiglio principe, Mirko, è quello sempre di verificare i consumi reali e non fidarsi mai delle letture stimate, perché poi ci troviamo sempre le sorprese quando meno ce lo aspettiamo. Seconda cosa, se ci dovesse mai capitare una disgrazia simile, ricordarsi sempre che prima di pagare comunque ci sono degli esperti all'Adico che ci aiutano a verificare le bollette e gli importi che sono dovuti, dopodiché si può pensare anche a valutare un piano di rientro e poterlo rateizzare in funzione anche delle proprie esigenze e delle proprie disponibilità. Un altro consiglio importante è quello di non pensare di risolvere il problema bloccando il pagamento o non effettuandolo, perché poi ci troviamo con tutta una serie di meccanismi che si attivano che certamente possono complicare una facile gestione invece di una pratica che potrebbe essere, perché tante volte le persone vengono da noi, bloccano i pagamenti in banca oppure si accorgono della situazione quando magari gli distaccano il gas o l'energia dalla rete, quindi bisogna pensare a un nuovo riallaccio, a una nuova utenza, quindi anche dei costi ulteriori. Quindi l'importante è periodicamente fare delle letture, e questo già si può mettere a riparo nel 90% delle case. In quanto tempo mediamente siete riusciti a risolvere questi casi da quando appunto i clienti se ne sono accorti? Beh, è chiaro che come Adico noi riusciamo a farlo molto bene e molto velocemente, perché abbiamo dei canali che certamente magari l'utente non ha, per cui di solito in 30 massimo 60 giorni le problematiche riusciamo a risolvere. Certamente, ecco, quelle che possono complicare di più nella tempistica sono quelli che sono vittime delle società del recupero crediti, perché poi scopriamo che da un lato abbiamo delle società che sostanzialmente non si preoccupano di salvaguardare le reali esigenze dei consumatori, non si fanno scrupolo a passare nella pratica alle società di recupero crediti. Ecco, qui invece la cosa si allunga un po' di più, però normalmente riusciamo a risolvere bene queste situazioni. Tra un paio di giorni nuovo appuntamento con l'Associazione Difesa Consumatori per parlare questa volta di problemi condominiali, e credo ne avremo molte da dire. Grazie al Presidente Carlo Garofolini, alla prossima. Grazie a te, Mirko, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.